L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, una nuova puntata dell'Altro Pianeta che dedicheremo a un appuntamento ormai storico dell'innovazione amica dell'ambiente, cioè il premio che si intitola proprio così, Innovazione Amica dell'Ambiente, che ogni anno dal 2001 organizza e segue Legambiente. Negli anni il premio ha scovato molti talenti, anticipato tendenze. Andiamo a vedere come vanno le cose quest'anno con Andrea Poggio, vice direttore generale di Legambiente. Com'è l'edizione di quest'anno? Anzi, innanzitutto, buon pomeriggio Andrea. Sì, buona domenica a tutti. Quest'anno i temi sono un po' evoluti rispetto agli anni precedenti. Il tema sono i territori dell'Italia, ancora una volta come sigla portante, ma con delle declinazioni più marcate. Da un lato sui territori urbani, le smart city, i modi nuovi con cui si vivono gli spazi urbani delle città e si vivranno gli spazi urbani delle città di domani. E dall'altro lato i luoghi come luogo di produzione di saperi, ma anche di prodotti che con i saperi dei territori si generano, perché c'è una caratterizzazione molto forte, soprattutto in Italia, di distretti produttivi. Costruire la città in modo diverso vuol dire anche sviluppare questi nuovi talenti, perché insieme alle costruzioni urbane si generano le comunità creative. Quindi costruire e ricostruire le città, insomma. Soprattutto ricostruire le città. Nei nuovi ecoquartieri che stanno nascendo qua là nel mondo e cominciano già in embrione a venire fuori in Italia, la cosa interessante è che non sono mai luoghi dove si abita e basta. In realtà nascono all'interno dei nuovi quartieri anche delle attività nuove, dei professionisti che si sono dedicati alle nuove forme della green economy, per costruire la città, per dotarla di servizi, infrastrutture di trasporto, energetiche, che automaticamente diventano creatori di nuove attività produttive. Insomma, il distretto della green economy sorge in genere insieme all'ecovillaggio o all'ecocittà in stretta prossimità. Questa è una tendenza che si comincia a vedere in luce un po' dappertutto. Volete un esempio forse macroscopico di questo? Ma io ne ho avuto la sensazione netta nella Milano del fuorisalone, la Milano del design, che cerca di proiettarsi nel recupero dei materiali poveri per generare nuova ricchezza dalla bellezza, dal disegno, talvolta materiale di recupero dai rifiuti, anzi molto spesso, è stata un'esperienza unica anche quando la scorsa primavera, e lo sarà probabilmente la prossima. E non è stata una fiera che è stata confinata in un ambiente, in un ambito, ha coinvolto un'intera cittadina. Certo. A proposito di ecoquartieri, poi torniamo tra poco sul tema per il quale ci siamo insomma sentiti, cioè il premio, però noi parlammo qualche mese fa a proposito del tuo libro molto di questi ecoquartieri, il libro ricordo Le città sostenibili. Mi hanno detto che nel frattempo insomma gli ecoquartieri pian pianino il loro verbo si diffonde ed è arrivato non a Milano ma in Sicilia. Ci dici un po' cosa sta succedendo là? Grazie ai circoli di Legambiente, insomma. Sì, ma è nata un'idea. A Palermo sta nascendo la nuova zona franca nel quartiere del Porto, che è un quartiere che ha molta attività di carattere economico, anche il mercato dell'ortofrutta o un mercato cittadino che serve gli abitanti, una comunità che vive delle fabbriche che stanno persino dentro la città e in quel quartiere. L'idea che sta nascendo è se insieme alla zona franca, quindi nuova area di sviluppo di impresa all'interno di una città, possa nascere una trasformazione urbana dei servizi della città, persino della capacità di intervento sulle case per renderle più efficienti dal punto di vista energetico, ma molto più sicure soprattutto dal punto di vista e confortevoli per la vita dei loro residenti, abitanti. Certo. E allora questo diventa una cosa molto simile a quella che abbiamo visto in giro per il mondo, che è stato definito come ecoquartiere. Le città del sud e le città del nord, perché siamo stati chiamati a discutere di queste cose poi dopo in Umbria, nelle Marche, in Emilia Romagna, a Milano, a Torino. A Torino sta nascendo un'esperienza di quartiere che domanda un coinvolgimento delle istituzioni e delle attività produttive nel quartiere di San Salvario, vicino in prossimità della stazione. Insomma, tutto questo nuovo fermento urbano dimostra che le città sono più vitali di quello che ci si aspetta, anche se la popolazione delle nostre città. Ma se le città sono così vitali, ti sembra che il governo lo sia? Ho in mente l'agenda verde del governo da poco, insomma, presentata. Ma se devo guardare le decisioni che sono state prese pochi giorni fa dal governo, quella di proporre nella nuova legge di stabilità lo sviluppo degli stadi e con la scusa degli stadi speculazioni su nuovi centri commerciali e aree residenziali in deroga a ogni pianificazione, dico che proprio non si è capito nulla. Stiamo su due pianeti diversi, per l'appunto. Per carità, alcuni stadi dobbiamo rimetterci le mani, dobbiamo rimettere le mani anche sulle città dove ci sono i quartieri del degrado o le aree dismesse da bonificare, ma queste sono le cose da fare, non la speculazione per avere come onere di compensazione degli stadi. Pensate a quello che è successo e sta succedendo in questi giorni dopo le grandi piogge in Sardegna, vi sembra questa la risposta idonea? In realtà intervenire sulle città diventa urgente. Innovazione, certo, perché bisogna innovare il modo con cui si interviene nelle città, perché fino adesso non siamo riusciti a trovare una chiave. Noi stiamo abbandonando i centri storici, stiamo abbandonando le periferie svuotate del loro tessuto produttivo e stiamo aspettando l'uscita dalla crisi per ricominciare a speculare sulle aree verdi e consumare nuovo suolo. L'innovazione nel resto dell'Europa parte ormai anche del mondo è rifare le città laddove le città già esiste, ricostruirle in alcuni casi facendo manutenzione, in altri casi facendo abbattimento e sostituzione. L'altro pianeta. Ancora insieme ad Andrea Poggio, vice direttore generale di Legambiente. Andrea, siamo partiti dal premio Innovazione Amica dell'Ambiente, siamo arrivati a parlare dei centri urbani, di quello che sta facendo il governo, ma insomma è un tutt'uno. L'innovazione amica dell'ambiente deve guardare ai nostri centri urbani, alle nostre campagne, al nostro territorio italiano, no? Quindi non siamo andati così lontani alla fin fine. Sì, se posso citare due altri temi che sono oggetto dell'attenzione del premio Innovazione Amica dell'Ambiente, che ricordo non è solo Legambiente, coinvolge il mondo delle università, principalmente milanesi, il Politecnico di Milano, la Bocconi, le istituzioni dal Ministero dell'Ambiente alla Regione Lombardia e diverse associazioni industriali, in primis Confindustria. Ebbene, il premio Innovazione, per esempio sul terreno della mobilità, che cosa sta dicendo di come sarà organizzata la mobilità del prossimo futuro? Non più legata ai soliti mezzi che utilizziamo, soprattutto si moltiplicano le modalità di mobilità anche micro differenti, non ci sono solo le biciclette per andare sul più semplice e efficiente possibile, ma due, tre ruote, tanti mezzi prevalentemente elettrici, ma soprattutto ci si muove in maniera molto più flessibile, dando risposta alla domanda di mobilità di volta in volta, all'occasione, e cioè molto uso e sviluppo delle forme di car sharing e di infomobilità che accedono di volta in volta all'uno o all'altro delle forme di biglietteria piuttosto che di sharing. Insomma, un domani ci si muove con il telefonino in mano, con le app. Questi sistemi cominciano a essere funzionanti soprattutto in alcune aree urbane, da questo punto di vista Milano e Venezia fanno da capofila in Italia, sì. Dando la certezza che è uscito al mattino e tornerà la sera, che è quello che in realtà spesso ci manca, che non abbiamo l'auto di proprietà, no? Certo. E qui c'è tutto un mondo che si muove, che sono offrire servizi di mobilità molto variegati, non più solo le grandi infrastrutture del sistema pubblico, perché poi dopo bisogna trovare soluzione all'ultimo miglio, fino ai sistemi di infomobilità il più flessibile e adatti possibile a ciascuno di noi. È un terreno di sviluppo formidabile che, certo, che si ricollega però purtroppo un po' a quei blocchi di cui dicevamo prima, cioè poi qui si arriva anche all'agenda digitale del paese, cioè certe cose funzionano se il paese è pronto a distribuire certi messaggi, certe possibilità. Certo, abbiamo i dati aperti di come funzionano i mezzi pubblici in modo tale che ciascuno possa sviluppare la sua app che meglio gli aggrada per riuscire a utilizzare al meglio. Abbiamo l'informazione disponibile su quanto consumiamo a casa nostra e il momento utile per vendere l'energia del nostro pannello solare alla rete. In alcuni casi comincia piano piano. Per esempio ci sono reti cooperative per la distribuzione dell'energia, che è una vecchia forma consortile dei comuni italiani, addirittura dell'epoca di prenazionalizzazione, che sta per essere recuperata. Perché? Perché l'energia costa meno e più rinnovabile. Una cosa che sembra parlare del futuro, e invece si parla di un pezzo di passato che ha saputo anche lì convertirsi. Esatto. Non vorrei fare una battuta cattiva, ma vuole essere uno stimolo ai grandi dell'energia. Attenzione, perché nelle prime società del mondo che stanno sviluppando tecnologie rinnovabili sull'eolico, sul solare e sulla generazione delle reti, raramente troviamo le grandi imprese pubbliche nazionali o le multinazionali del settore. Se è così vuol dire che i vecchi colossi sono destinati a rimanere fossili, legati al fossile energetico e diventare fossili loro. È un appello, vediamo se vengono fuori delle risposte dalle nostre Enel, dalle nostre Eni, che per il momento facciamo una gran fatica a vedere. Candidatevi al premio innovazione ambientale dell'ambiente, portateci delle cose buone, ne abbiamo bisogno. E certo, ne abbiamo bisogno, e come. A proposito di quello di cui abbiamo bisogno, c'è un altro settore che mi dicevi prima del premio che ha ricevuto molte candidature, insomma, è quello dell'agroalimentare. Qui dove si orientano, insomma, coloro che si sono presentati finora? Quello che si pensa normalmente è che l'innovazione nell'agroalimentare venga dall'OGM, invece no, sull'OGM c'è molto poco, almeno prodotto su scala industriale e di offerte di questo tipo. C'è invece molto di più sulle nuove forme di produzione di valore da parte dell'agricoltura e dell'agroalimentare. Non si generano più soltanto alcuni importanti prodotti tradizionali, il mais, le farine. Si cerca in generale di produrre delle risposte che per il momento sembrano di nicchia, ma in realtà si diffonderanno sempre di più, e che contemporaneamente riescono a dare valore molto all'agricoltura. Non è solo un'agricoltura che genera alimenti di massa per i grandi cicli industriali, non è solo un'agricoltura che serve all'allevamento, ma è un'agricoltura che serve a mantenere il territorio. E quindi contemporaneamente a fare uso di sottoprodotti biomateriali, non solo e non tanto bioenergia nelle forme tradizionali, ma anche bioenergia che serve servono in primo luogo in loco, anche bioenergie che possono essere utili a cose diverse. È interessante in alcuni sistemi energetici locali anche l'uso del biometano direttamente, non solo per la generazione elettrica da biogas. È interessante infine la nuova chimica verde che nasce dalle produzioni vegetali. E qui il discorso che è partito da Novamont, con le bioplastiche si espande, generando e filiando cose nuove un po' da tutte le parti nel territorio, non soltanto da parte di Novamont o dall'ENI. Quindi insomma questi sono settori che si affacciano anche al premio. C'è ancora la possibilità di partecipare perché quest'anno i termini arrivano fino al 1° dicembre, vero? Sì, infatti, diciamo il sito. Come no? Il sito è premioinnovazione.legambiente.org. Ripeto, premioinnovazione.legambiente.org. Andrea, abbiamo ancora un minuto e io ne voglio approfittare per chiederti del mio incubo quotidiano che sono i rifiuti. C'è anche una sezione rifiuti, ci sono idee innovative quest'anno per quanto riguarda quest'ambito, visto siamo anche nella settimana dei rifiuti, tra l'altro, quindi dacci una speranza. Ma io credo che ci sia un'Italia virtuosa che ha saputo trasformare davvero i rifiuti in risorse. Cioè, la valutazione che si fa oggi è di almeno 3.000 aziende nuove che sono nate nel settore di riutilizzo dei materiali e delle forme di marketing legate ai nuovi materiali e che lavorano e operano nel settore, 150.000 posti di lavoro, ed è uno dei settori in crescita nonostante la crisi e nonostante la riduzione della quantità di rifiuti che generiamo. Quindi non è vero che non si può fare di più con meno. Come no? Le cose più innovative del settore dei rifiuti forse ultimamente stanno venendo fuori molto lontano dal settore dei rifiuti. Cioè, dicevo prima l'esempio del fuorisalone, nuovi oggetti di design, oppure se si va nelle fiere dell'edilizia si scopre che i nuovi mattoni, le nuove componenti di costruzione delle case spesso sono fatte da riciclaggio senza che l'interlocutore che me le sta proponendo ci capisca mai qualcosa del settore dei rifiuti. Però bisogna che quell'interlocutore, poi qui chiudiamo, sia, come tutti noi italiani, impegnato a differenziare bene, se no queste cose non si possono fare, insomma. Siccome sai, stai toccando per me un nervo scoperto, stili di vita e green economy sono collegate. Noi non usciremo dalla crisi come siamo entrati, sia come consumatori che come produttori. Grazie, e con queste parole chiudiamo perché davvero abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Grazie ad Andrea Poggio, vice direttore generale di Legambiente, che è stato con noi oggi per parlare del premio Innovazione Amica dell'Ambiente. A presto. Grazie a te e a tutti voi. Appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora.